Il punto di Stefano Folli. Nel lungo psicodramma della legge elettorale, oggi il barometro volge di nuovo al bello grazie agli ultimi contatti fra Renzi e Berlusconi. Si andrà in Parlamento nei tempi previsti e questo è già molto, ma il cammino della riforma resta zeppo di ostacoli. Si è fatto un passo avanti sulla soglia del 37%, quella che dà diritto al premio di maggioranza, ma l'intesa a due deve poi essere confermata nei fatti. Soprattutto deve reggere alle infinite pressioni che provengono dall'interno dei due campi, soprattutto dal centro-sinistra. Oggi la vera domanda è: sono sufficienti questi accordi telefonici per tenere insieme tutte le tessere del mosaico? Perché in effetti il primo problema è la tenuta dell'intesa a due e il secondo è riuscire a evitare le imboscate parlamentari, anche da quei partiti più piccoli che stanno per essere decapitati, alcuni dei quali fanno parte della maggioranza di governo. Insomma, aspettiamoci qualche altro colpo di scena prima del traguardo.